Beh, Claudio. Eia. Beh, come gira qua? Sono due o tre giorni che non entravo, che mi sto un po' disintossicando dalla frequenza. Voi state entrando, sì, tenetela un po' viva, mi raccomando, se no è tribula la cosa. È triste anche da immaginare la 27 vuota di nuovo. No, ma chi vuole entrare, chi non vuole entrare rimane davvero una fottuta, Marco. Cioè, lo segnalo, hai aumentato di 5 punti S come Giulio. Ora mando con 8 metri di altezza, l'ho qualificata dove c'erano le direttive. Allucinante. 5 punti S. 5 punti S si è aumentato. Si dice, no? No, allora ti spiego. 3009 col filtro sono 3 watt. Questo ne ha 12, col filtro 10 pieni, dai, 10 pieni. Ma hai aumentato un bel, anche se hai 10 pieni o 10 volti. Il mio segnale è come sempre lo stesso. Giulio mi ha dato un po' in più, Lì da te com'è? Allora, qua è a LED. Qua a LED, aspetta che faccio il cambio veloce, però siccome tu sei già in teoria 9.30, di più la lancetta non va. Comunque verifichiamo, dai. Vabbè, chiudi le fighe e ti accorgi se c'è qualcosa in più. Cambia radio, voglio vedere se con pochi watt il tuo segnale è sempre lo stesso e aumentato. Dammi un attimo. Vai. PRM, cazzo, la Nicola, PRM. PMR, Nico, non PRM, PMR, PRM. Già ho azzeccato Mike, mamma mia, se sbaglio Mike qua brucio tutto. Aspetta che spengo l'altro, non voglio rischiare, che l'altro è nuovo, porca miseria. Vieni avanti, che prima ti guardo una tour e poi ti attenuo. No, con questo quanti vatti hai, giusto perché non mi sono lasciato dietro che c'era Nicola chiamando, canale 7, PRM. L'ho sentito Nicola, sì, lì. Allora, dunque, questo è il 3009 omologato 4 watt, il filtro mi ruba 1 watt, quindi 3 watt. Queste sono le condizioni solite di quasi tutti i giorni. Vedi un po'? 4 punti S è aumentato, 4, è un bel forte, ma non me ne accorgo perché c'ho molto più QRM, capito? Un bel alto adesso, molto alta. Ok. Vedi un po' io come ti arrivo, se noti differenza, se c'è qualcosa di diverso. Allora, solo che io non mi ricordo le tue condizioni di prima, Claudio. Tu adesso sei attenuato, sei 7 circa, 7 modulato. Alle volte ti ho visto ai minimi termini, ti ho visto anche a Santiago 5. Sai, se sapessi i watt tuoi soliti, comunque sì, presumo tu arrivavi così attaccando il lineare, ci siamo, mettendolo alla terza potenza, quindi se tu adesso sei liscio, sei aumentato come? Liscio, sono con 4,40, soliti watt, 20 watt, sempre soliti, 20 watt, 35, 40 modulati, ma sempre uguale. Io noto come la potenza dei cap, lo lascio sempre così, che intanto non serve a niente, capito? E aspetta, 2 punti S in più, ma me l'ho immaginato, perché stamattina avevo un QRM, di solito non c'ho QRM a segnare 1, come attivato sull'antenna, poi ho invertito i cavi, praticamente adesso il cavo è l'H1000 che stavo usando sulle direttive. Prima avevo il 213, adesso c'ho la Camilla che avevo sulle direttive, che praticamente c'è uno spezzone di 7 metri, 8 metri che va al commutatore elettronico, quindi il cavo di discesa diretto e la canonata. Grande lavoro. Ehi, caspita, adesso Claudio prendila per buona, presto smitter, già lo sai, lascia il tempo che trova, però la differenza c'è. Ma tu cosa intendi 4 punti S? Magari sono 4 dB, cioè che ne so, anziché 9.30 sarà 9.34 forse. Esatto, sì, in quella maniera lì, dai, senza stare a specificare dB, 4 punti sullo smitter mi si è aumentato, per parlare in gergo tozzone. Pensa, è qua lo stesso, c'è questa antennina qua, Energy, che spunta a 2 metri dal gabbiotto solo. Se io avessi voluto tirantare, mettere un palo da 6 metri anziché da 3,5, perché gira, il palo era 3,70, poi sollevato da terra circa 1 metro, cioè mettendo il vero palo a 6 metri sarebbe stato già, però poi tirantare risente troppo del vento, poi non ne vale la pena per quello che faccio. Ti volevo dire, Claudio, che il 2 mi pare, in Inghilterra festeggiano i 40 anni della CB, mi pare, o 39 anni della 27, perché mentre da noi l'hanno legalizzata nel 73 ed è diventata operativa nel 74, loro la 27 l'hanno avuta dall'81, sono arrivati molto più in ritardo rispetto a noi in Inghilterra, e gli hanno dato solo l'FM e quei canali lonfi che non potevano parlare poi con nessuno, perché vanno da 27601 a 27991. Marconi, ti chiedo un secondo che mi hanno chiamato al telefono, un minuto solo. Vai con calma. Prova. Test, 1, 2, 3. Sì. 4567. Chi è? Ah, c'è bene, io. Ah, Gianfranco, ciao, dopo una settimana di... che non ti senti. Stavo guardando lo smitter qua. Ok. Porca miseria. Non si sa mai che apparecchio scegliere, eh? Vogliamo da utilizzare. Almeno quando uno ne è uno, è obbligato, usa quello, punto. E adesso qua, porca miseria, mi servirebbe un secondo armadietto. Sono uno sopra l'altro, tutti accattattati. Io ne ho fatto fuori 2 questa settimana, per quello che non mi ha sentito, sarei impegnato in spedizione. Luca, sto guardando tutto, e così almeno ho tutto nuovo. Non lo so, me ne rimane il vecchio, o meglio 2, vabbè, uno ne è portato. Però quello c'ho timore di darlo, perché tra l'altro mi sa che c'ha il record di vendite, e anche di anni di vendite, che è 2000. E anche quelli là, quando ho detto, come è stata una valutazione, hanno detto di no, le conviene tenerselo, quello dello stretto. Quindi anche se è grande lo lascio qua, perché è da molto che non lo uso. E vabbè, è così. Eia, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Luca, ci sei? Sei tu? Oppure... Ciao Marco, dimmi, sono io, buonasera, dimmi tutto. Ehi, ho sentito il bip sotto, avete ripreso assieme. Va bene, tu sei là, l'altro QTH, dai, buono, ottimo. Aspetta, che abisso che c'è rispetto a prima, è un bijou, Ormai la devo mettere sul tetto. Sul serio? Sì, allora fatta, ahimè. Non hai bisogno nemmeno di 5 ottavi. Guarda, un quarto d'onda in una posizione buona è eccellente. È radiale verso dove l'hai direzionato, Luca? È radiale direzionato verso casa di Luca. Rispetto a lì, no, ma grosso modo sud, nord, est, ovest. Sud. Beh sì, conviene, perché dove sei tu praticamente il radiale è verso Sassari, grosso modo, ci siamo, verso la città, il grosso della città. Ma è puntato verso la Tedò, ce l'ha diciamo, verso la Tedò c'è la Budi, una zona lì. Dai che vado a farmi una doccetta, mi deve venire caldo domani a darmi una mano, così la piazziamo, dai, va bene, dai, riprendi, sentiamo, ciao Gianfra, riprendi tu, dai. Sì, ciao Luca, anch'io comunque ti ricevo bene, non posso dare segnale perché no, non lo vedo perché è troppo piccolo il coso, la mancetta qua. Volevo dire una cosa a Marco, mi sono scordata. Riprendi, ma ecco, Marco, ma tu la senti in questi giorni che c'è una propagazione da paura? Ehi Gianfra, io non sto accennendo molto. 2 o 3 giorni che ho acceso, ho salutato, mi pare l'altro ieri, non sto accendendo tanto, mi sto un po' dedicando ad altro, non voglio stare seduto tutta la sera qui in poltrona col bracchino, col ricevitore, anzi le giornate erano buone, si poteva anche fare un giro, però poi mi sto aspettando il Covid da un momento all'altro, il blocco, perché secondo me è già deciso, l'Europa sta spingendo, sta dicendo di essere tutti unanimi con l'idea del lockdown, quindi è come se fosse una cosa preprogrammata. D'altronde i contagi ci sono, se sono reali, premetto. E quindi vorrei lasciare la macchina nella via, in modo che se sta due settimane a mezzo ferma almeno, posso comodamente togliere la batteria, portarla a casa, ricaricarla. Se no, se mi tocca parcheggiare distante e mi devo portare la batteria pesante quando la ripiazzerò, capito Gianfranco? Sì, forse quello è il minimo. E purtroppo è così, si sta diffondendo a macchia d'olio. E cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così. Io sto anche, ovviamente sto anche facendo, mentre parlo sto facendo un lavoro un po', mi sta rompendo le scatole di programmazione. Su uno me ne riuscito due. E non riesco a importare un canale. Vediamo il perché. Per l'altro tutto bene, sì, fatto colazione, pranzo. No, vediamo se è rientrato Claudio dalla telefonata. Claudio, sì. Attenzione Brecco. Niente Claudio, avanti a Brecco. Sì, ciao, buonasera Roberto, da questa parte in operazione con un vecchio Puni 23 canali. Microfono da Palmo, ditemi un po' qualcosa. Ciao Robè, infatti il segnale, caspita, la voce era tua ma la timbrica no, e toni bassi, però dopo tutto è capibile, io tengo il volume non troppo alto, vediamo Gianfranco e Luca anche se c'è ancora, vai Gianfranco. Sì, ciao Roberto, io di segnale ripeto non te lo posso fare perché è troppo, sono senza occhiali e quindi è troppo piccolo questo attrezzo qua a LED. E poi ne ha solo tre di numeri, 159, la fiscetta mi è sembrato che arrivi intorno all'8-9, una cosa del genere. La radio in effetti è, come ti ha detto, pari Marco. È un microfono suo, ti prendete questa radio degli anni 70, molto vecchio di età, però di aspetto è abbastanza in ordine, dai. No, mi interessa se sta uscendo bene, questo ho preso l'altro giorno a prezzi di realista. Ditemi un po' se la radio è chiara. Sì, diciamo capibile, molti toni bassi, Robè. Dovrei alzare un po' il volume, provo un po' che ce l'avevo regolato in base a Claudio. Hola, prova canale 10, apparecchio 23 canali della Puni. Sì, a parte i toni bassi, capibilissima, no. Magari non è particolarmente bella con modulazione, però. Ma che Puni è? Qual è? Il 6 canali piccolo? Col microfono altoparlante oppure altro? No, il 23 canali, quello che sta, i canali è diciamo tipo una scala graduata delle autoradio, parte da 1 a 23, c'è un indicatore che scorre in orizzontale e poi c'è l'orologio digitale analogico però, con i numeri analogici, tipo le vecchie radio svedie, c'è anche i secondi, c'è il timer d'accensione, c'è soltanto la M e basta. Frontalino in alluminio e diciamo un apparecchietto carino, a me mi è piaciuto subito. Sì, bene, benino insomma, magari mettendo un mic, so che vabbè quello è tutto in pandan, come dire, non voglio monopolizzare. Luca, ci sei ancora? Vediamo Claudio se è rientrato dalla telefonata. Buonasera. Ciao Giulio, ciao, ben sentito. C'era Claudio, Gianfranco, Luca che sta facendo non so qualcosa, ma come dico l'ho già detto, Roberto anche. E ti mando Roberto, vai Roberto. Ciao Giulio, ben sentito anche a te. Gianfranco che non l'ho salutato, Luca non l'ho sentito per niente. Ok, vedi un po' tu da che sei più distante Giulio, come va questa radiolina? Va bene, basta del radio e anche di segnale perché è un baracchino. Santiago 9, poi qua la radio 5 per la chiarezza, però per il volume no, vabbè, ma comunque va bene, a me va bene, sì, non c'è problema, ce l'ho avuto anch'io con la radio, Sì, ma io faccio sempre ascolto, Marco, prima di entrare, io ascolto che c'è in ruota prima. Dunque, hai fatto bene a fare l'appello, d'accordo, però sappi che io faccio sempre così, faccio sempre un attimo di ascolto prima di entrare e di fare break, così almeno se c'è qualcuno che devo uccidere non lo uccido perché non entro. Oh yeah. Va bene così, dai, avanti Gianfra, buonasera. Sì, buonasera Giulio, buona ascoltata. Saluto anche, anzi Roberto, ciao Roberto, io sono un po' distratto perché sto facendo una programmazione di quella un po' rognose, quindi vi chiedo, cioè rimango un pochino in ascolto, e ci sono, però sono in ascolto perché se non succede un macello e non ci capisco un tubo. Riprendi Marco. Cappa, l'ho cambiato parecchio, ho rimesso il presidente. E lo voglio un po' sfruttare, se era inutile averlo preso. Io ho perso il filo del discorso, poi sto ricevendo messaggi e quindi rilancio direttamente a Roberto. C'è anche Luca e anche Claudio, dovrebbe rientrare a breve. Ma Claudio chi? Claudio Sparviero o Muros? Sparviero. Eia. No, questo sono sicuro che se le metti un microfono, già riuscite a sentirmi, se le metto un microfono amplificato andrà molto meglio, tipo il patch che ho io, e quello col microfono col tunnel, c'è cioè, una meraviglia, è che questo c'ha quegli attacchi vecchi a 5 puli, non so se ve li ricordate, tipo le serie, sulle serie, come si chiama, che dava selezione. Buonasera a Toros, dai, io però vi saluto perché devo andare a prendere mia figlia a lavoro. Ok, ciao Robert, ho tirato sull'antenna come ti avevo detto. Anche tu hai aumentato di qualche punto sullo smitter, va bene così. Ok, se ci siete ci sentiamo dopo. Ehi, anche lei aveva manifestato in piazza per quella cosa? Lei sta qui, chiude il bar alle 6, si mette tutto a posto e basta, non usava manifestare, non usava, ne la futtasse intanto. Come va, va, non è che ci siano molti discorsi da fare, dai. Ok, ciao Roberto, ciao, mi pare a Giulia di aver sentito che era al telefono, ciao Marco, a Roberto, vai, ok, riprendi tu Marco, fai girare e dopo quando rientro già ci sentiamo, ok? Ok, eia, va bene, vediamo se rientra Luca, faccio girare per Giulio, riprendi Giulio. Ok, ciao qua. Sì, c'è poco da manifestare, o Marco. Le persone intelligenti non vanno a manifestare per queste cose così serie, perché intanto lo sappiamo, è inutile stare lì a rompere le scatole, non voglio chiudere, ma cosa vuoi fare? Vuoi morire o vuoi rimanere aperto magari fra 15 giorni, un mese? Io la penso così. Prima potevamo bloccarlo il Covid, adesso invece lo dobbiamo inseguire per la negligenza di certi imbecilli che non hanno saputo mantenere l'ordine. Comunque, mamma è sveglia, mai Zannuzzi, cosa vuoi che ti dica a questo punto? Sta la gente fa anche schifo, a me mi fa schifo certi atteggiamenti di certe persone, ma accidenti a loro. Capisco che il lavoro è fondamentale, certo che è fondamentale, ma lo sappiamo benissimo, ma se crepi che cosa te ne fai del lavoro? Non te ne fai proprio un bel niente. A me mi dà anche fastidio, mi fa diventare anche nervoso sotto certi aspetti. Vabbè, dai, avanti Robert. Vabbè, dai, ci sono pareri diversi, lasciamo, cambiamo un discorso. E quindi l'hai avuto anche tu Giulio questo baracchino? Sì, l'ho avuto io, l'avevo dato a Giulio, l'avevo dato a Giulio Murito, l'avevo dato, però poi ci mancava l'orologio, perché a me me l'avevano dato, non mi ricordo chi è che me l'aveva dato, io non ne avevo altri, non me ne facevo niente, l'avevo dato a Giulio Murito, non mi ricordo, sono passati 30 anni come minimo, forse anche di più. Ma come deve segnare Robe? C'era lui, poni sulle balle, no? Sì, è quello, ce l'ho avuto. Io quando ce l'avevo io avevo attaccato il VFO della Elettronica, un VFO e l'avevo attaccato all'oscillatore, al transistor oscillatore, e prendevo tutte le radio del mondo, prendevo tutte indistintamente, soprattutto la notte, era fenomenale, però in quanto a TVI era micidiale, infatti non lo utilizzavo quasi mai, lo utilizzavo solo per ascoltare magari la notte le radio del mondo, tutto lì. Avanti ancora, Robert. Vabbè, guarda, ci ha aumentato il segnale da te, mi hai sentito già con... vabbè, com'era il segnale? Sempre uguale? Questo secondo scala, questo qua non ti posso dire niente, arriva tutta la scala, ti tira su, però sono contento che non satura, perché pensavo il pace, col pace saturi, quando stai caricando che c'è il segnale forte e siamo pulisci e devo chiudere l'RFG, invece con questo non c'è bisogno. Quello devi vedere a me che c'è un microfono di tavola, già col connettore te l'ho fatto vedere, c'è un microfono a tavola con quel connettore io, te lo faccio sentire io a vedere. Così poi ti porti via microfono e radio. Va bene, dai, sì, anche tu, allora se sei con quei watt lì di quella radio stai arrivando 3-4 punti sullo smitter in più, dai, per capirci. Eri 40, sei quasi 45 con questa radio e con l'altra sei 50 pieno. Va bene, dai, di nuovo a tutti e ci sentiamo dopo quando rientro, vado a prendere la fita mia. Avanti Marco lì. Via, ok, dai. E adesso vado in cucina, scaldo qualcosa da mangiare, tanto l'ora nostra è arrivata. Ok. Vediamo se è rientrato Luca. Luca, ci sei? O Gianfranco? Vabbè, dai. Comunque non vi lascio da soli. Presto c'è Giulio, Roberto. Dai, bianco per me. Vado a scaldare roba qua. Ok? Riprendete voi. Giulio. Dimmi, vabbè. Il segnale è molto più basso con questa radio? Sì, è molto più basso, è incasta. Guarda, non è nemmeno 9, è 8 e mezzo, quasi 9, dai. Ci manca un pelino per arrivare ad essere 9 centrato. Per cui, vabbè, ma lo sappiamo, no? Quello ti dà 3 watt, dammi quello, non di più. Lo so, io ce l'ho avuto e lo so. Va molto bene il microfono, il Tane più 3 lì e anche quello della SBE va molto bene in quel baracchino lì. Perlomeno io ce l'avevo, ce l'avevo anche l'autocostruito avevo e andava molto bene. Va bene comunque, dai. È un baracchino di poco conto, nel senso che è bello perché c'è l'orologio, insomma, cioè diciamo che esteticamente non è brutto, la verità, non è brutto esteticamente, perlomeno a me piaceva, però era un disastro per il TVI e poi è anche molto, ma molto rumoroso e prendeva rumori QRM a non finire. Dai, Robè. Vabbè, questo non lo so perché l'ho provato, ti ripeto, l'altro giorno l'ho acceso, adesso lo sto provando in diretta con voi e sono contento che non prende, come si chiama, che non satura, perché questi baracchini di vecchia generazione quando ci sono segnali forti, tipo quello di Claudio, che siamo molto vicini, saturano ed è una cagata. Perché proprio deve... Sì, no, la roba di colpi non piglia. Non pune, 23 gradi. Piccolare ce l'hanno piazzato qua dentro con l'orologio, gli hanno fatto una scala. Perché è semplice, non l'ho aperto perché c'è ancora come si chiama di garanzia, quel tagliandino che ci mettono, non ho neanche avuto voglia di aprirlo, se non me ne ho finito. Però è piccolino, dai, come dimensioni non è grande come c'è di stazione base. Poi mi piace un bel questo orologio perché c'ha i numeri digitali, anche se non è come si chiama, quelli a dio, di luminosi, cosa del genere. E poi c'ha i secondi pure, stranamente c'è anche i secondi che girano. Sì, poi c'è il timer che se tu lo programmi, perlomeno quello che avevo io era così, ti fa la sveglia anche, ti si accende automaticamente all'ora stabilita a te, eccetera eccetera. Non so se quel tipo di orologio così, il mio era così, il Pony da tavolo, da base era così il mio, Robè. Sì, poi a sinistra oltre all'orologio c'è l'allarme, diciamo, l'accensione, il timer che ti puoi mettere in posti, l'accensione, lo metti in posizione auto, perché adesso l'ho messo in posizione normale, c'è scritto auto e probabilmente si accende allora che desideri tu, non so se poi si spengano, non so, questo non so. L'unica cosa magari potevano fare un po' più bellino lo smitter, però c'è il modulometro. Quando lo avvicino alla bocca, adesso sono vicino, la luce del modulometro lampeggia. Quando sono in trasmissione si accende la luce rossa, quando c'è la ricezione di una stazione diventa si accende l'altra lucetta rossa. Ecco, infatti dovrei essere utilizzato così, vicino al microfono dovresti modulare, perché la radio così aumenta un bel po'. Dunque va bene così. Sì, sì, ma lo so, vabbè, è così, ripeto, l'avevo dato a Giulio Muritto, non solo quello, anche un altro lo dovrebbe avere Giulio. Lui vabbè non li ha mai utilizzati, salvo qualche prova così, ma niente di più. Non lo so, eppure pensare che le piace il baracchino, ma non l'ha mai usato, non lo so per quale motivo, forse, perché già lo sai, Giulio è una persona molto riservata, una persona molto, molto buona, e diciamo che io ho pensato che lui si vergogna a parlare al baracchino, ecco, si vergogna, ma io gli dicevo, guarda che non ti vede nessuno, mi tu parli al baracchino come parlare al telefono, per cui che problema ci sono. E qualche volta ho provato, infatti l'avevo fatto costruire anche un'antenna, le avevo dato tutte le misure, si aveva fatto una Grand Prix e penso che ce l'abbia ancora a casa l'antenna, però ripeto, no, difficilmente lui, magari ascolta anche, alle volte ascolta, però non trasmette mai. Sì, mi ha detto quest'estate, noi ci vediamo spesso, l'estate poi soprattutto, ogni tanto passa in officina, mi ha detto che lui ci ascolta tante volte, capita di ascoltare, no, magari è una persona riservata, magari preferisce ascoltare. Dimmi una cosa, poi questo tuning che c'è più o meno, ti sposti di 10 kHz, cos'è quello? Per i canali alfa, c'è questo potenziometro? No, sì, mi sembra che c'è anche il canale alfa, sì, se ricordo bene, ma non mi ricordo quale, forse il 22, non mi ricordo, non mi ricordo più, sono passato tantissimi anni, però ce l'ho presente com'è, ma adesso tutte le caratteristiche di funzionamento non le ricordo, ma il tunnel forse è per centrare eventualmente se c'è qualcuno un po' spostato o se risulta spostato, anche perché quello spostato non può essere, quello è tutto quarzato, non è a coso, a integrato, quello lì è tutto quarzato, con i quarzi o robe. Non serve a niente il tunnel giù, c'ho anche io uguale a quello, c'ho anche io solo che anziché essere poni è della Inuit, ma sono uguali, orologio, meccanico, tutto, c'ho anche io ce l'ho il tunnel, non serve a nulla, c'è tunnel meno e tunnel più, no? Ce l'ho al centro, al zero, non serve a nulla. Forse come NB stesso, una cosa del genere dovrebbe essere. No, come NB io c'ho la NL che si sente, elimina i rumori delle macchine, i rumori delle motocarro, delle moto, eccetera. Quello mio è, c'è il Mickey Gay, quello di Roberto non ce l'ha il Mickey Gay. Quello mio è più completo di quello lì. No, ma io ho proprio il microfono di quella radio, già col jack a 5 punte, pronto. Però lo voglio provare io a vedere se funge. E poi Roberto lo porti via e ti do anche il microfono, già non me la fotti nulla. No Claudio, l'ho provato adesso quando stavi parlando, si sposta di frequenza forse di 10, perché è come giro a sinistra e meno mi sento un po' distorto, lo metto al centro è giusto, lo giro a destra è distorto, probabilmente si sposta di 10 kHz, per i canali alfa probabilmente. No, non ce li ha 10 spostamento, l'ho provato anch'io, non mi sono accorto di niente, vabbè, non lo so. Roba di colpi in biglia, sì, ho provato. Quando ci sei tu fa battimento a zero con l'Inuit, mentre invece con l'Airbag se no non sento proprio niente. Vabbè. E i baracchini vintage, infatti l'ho tolto, io l'ho messo dentro l'armadio, sopra il DAC non ci metto più niente perché lo sto tutto rigando, l'ho tutto pulito e basta, non ci metto niente. Riprendi Giulio, ho chiamato mia figlia che ancora non è pronta, non ci picchia, ma hanno lavorato benissimo sino a poc'anzi, quindi adesso si fa un po' di pulizia, poi già mi avviserei quando andare a prenderla. Ok, qua. Purtroppo è così. Sì, ma è così, serve a quello, il tunnel serve a quello, magari a spostare un attimino, a centrare, se in caso di necessità, queste cose così, niente di particolare. Però, ripeto, però andava molto bene col Tanner più 3, andava molto bene, e anche col microfono SBE. tu mi sembra che ce l'hai l'SB, prova quello, se il collegamento è fatto giusto dovrebbe funzionare alla grande, veramente. Sì, me lo ricordo benissimo, ma anche quello che avevo autocostruito io, che poi tra l'altro non era che altro che lo schema dell'SBE stesso, perché io l'avevo copiato da un microfono SBE, l'avevo copiato quando poi mi dedicavo a fare questi lavoretti così da hobbista con il microfono in legno, eccetera, eccetera. Va bene, avanti, riprende, va bene. Sì, ce l'ho, ne ho due di SBE, di microfoni, poi no, il danno non lo tocco perché è già impostato per il coso, per il aiutami, per il pace, lo lascio stare così, ne ho di questi microfoni, no. Poi Claudio c'ha questo high-gain, l'high-gain quinto, me l'ha fatto vedere le fotografie, già innestato con quel tipo di attacco, magari me lo faccio provare da lui e poi vediamo un pochettino. Ok, vabbè. Sì, ma non mi ricordo che il canale più 3 mi sembra che funzionava addirittura con soli tre fili, se ricordo bene, con solo tre contatti. Gli altri, vabbè, c'erano naturalmente perché è a 5 punta, no? Se ricordo bene. Funzionava addirittura con solamente tre punti. Ma non c'è bisogno di smuoverlo da come ce l'hai il canale più 3. Ti fai uno spezzone, ti fai, vabbè, e dunque lo provi così, con uno spezzone, con un doppio filotto e via. Non è detto che devi smantellare il collegamento che hai per il patch, non lo devi assolutamente smantellare, sarebbe un errore. Io non avevo mai smantellato i microfoni, io li ho sempre adattati facendomi una prolunga, per ogni tipo di baracchino che ho avuto ho sempre fatto una prolunga appropriata per usare lo stesso microfono su tutti i baracchini, tutto lì ho robe, niente di particolare, guarda. Sì, no, infatti forse c'è anche un adattatore da Turner, però devo modificarlo con questa 5 puli, devo trovare il, come si chiama, il contrario, questo cos'è, la femmina, qui devo fare il maschio, devo trovare il maschio dall'altra parte. Beh certo, ci vuole il doppio sinoto, certo. Sì, ma io prima di mettere nello spezzone, prima di attaccare lo spinotto, collegavo lo spinotto che va al baracchino, quello sì, poi la prolunga all'altro capo della prolunga, spedavo i fili e i fili uno alla volta li infilavo dentro lo spinotto del microfono che voglio usare, appunto, quando trovavo il collegamento, la posizione giusta, facevo uno schemino su un pezzo di carta, prendevo lo spinotto e lo saldavo con lo schemino che avevo fatto, tutto lì, non ho mai mosso io lo spinotto originale del microfono, è da stupidi secondo me, visto e considerato che, che si può fare questo adattamento con una prolunghetta o robe. Dai. Sì, stava a vedere, c'è ragione benissimo. A molte volte lo fai per poltroniste, per non avere altre cose, però pensandoci bene adesso guardo se ce n'è uno innestato che ci abbia l'innesto per il tanner, e quello al tanner che ti trasformi in coso, con la 5 puli. Magari sarà un po' difficile trovare quello spinotto, ma devo guardare forse qualcosa che mi dà la vera cosa. Ma sai, Romè, la cosa bella che avevo fatto io ad una radio, mi pare che ce l'abbia Giulio, HB23, perché era una cosa allucinante, ogni volta che ti spostavi ne usciva lo spinotto. Sono una grandissima stronzata quegli spinotti. Avevo comprato il maschio e femmina e con Gigi Volcano avevamo cambiato sia quello della radio che quello che praticamente puoi usare qualsiasi tipo di microfono a 4. Lì se te la devi tenere con la radio le togli quello a 5 sia della radio, te lo togli dalla radio e metti uno a 4 e poi ti fa la connessione a 4, capito? È più facile, più resistente e tutto, perché veramente sono brutti da vedere quei cosi lì a puntare, vabbè che originale, va bene, va benissimo, però io mi ero stufato perché la usavo moltissimo quella HB23, usavo molto tempo fa, anni fa, i vintage, e ogni volta che mi spostavo giù, perché lo usavo col microfono normale, me ne usciva, allora dicevo, ma ero un pizzo di scatto, avevo comprato maschio e femmina e gli avevo messo il connettore, infatti già ce l'hai tu con la radio, gli avevo messo il connettore a 4, con la ghiera, avvitata, bene, l'avevo fatto bene, ma vedi che non esci più. Infatti è così, però lo sai così, a me piace sempre tenere le originali le cose, adesso vediamo un pochettino, dai. Poi ti ho detto, là, quando c'è 5 minuti, se me lo fai provare, per il gusto di sentirlo, con un microfono amplificato già intestato, così non sto a perdere tempo. Io me lo voglio provare anch'io, però non c'è problema, certo te lo faccio provare. Delle gain originale, delle gain quinto, il microfono a tavolo che l'ho fatto per le gain quinto e funziona molto bene e spinge anche molto bene. Originale mai toccato, fidati che non c'è manco la batteria da 9 volts, cioè due stilo da quelle grandi, qua sono da 1,5, qua sono, non lo so. Vai Giulio. Ok. Sì, ma è così, in effetti è così e vabbè, sai, tanti esperimenti già li abbiamo fatti in tutti questi anni, per cui poi si sa, ognuno adotta il sistema che più lo è conveniente, però tutto sommato ha ragione anche Roberto quando dice l'originalità non la voglio scombinare, visto e considerato che è un baracchino vintage, in effetti non è sbagliato, secondo me è anche giusto, però se uno poi non ci tiene a queste cose può anche cercare di migliorarlo con un altro tipo di attacco al baracchino, come stai dicendo tu, a 4 punti anziché a 5, rispettando chiaramente tutti i collegamenti in maniera ordinata in modo da poter utilizzare magari un microfono sempre a 4 punti. Va bene, comunque non è che cambia molto, la sostanza è sempre quella, interessante che vada poi bene. Avanti, va bene. È facile, dipende tutto poi da cosa uno vuol fare, dai, poi vediamo un pochettino. Claudio, già te l'ho preso, ci mancherebbe, pure già lo sai, la prima persona sei tu, te lo devo dare, non c'è problema. Ok, non c'è nessun altro qua su questo canale, dici? Io ero poco fa che stavo facendo alcune, mettendo un po' a posto qua nel progetto stamattina, ho invertito cavi, tutto, adesso ho l'H1000 come discesa per la 27 che ho usato quella della direttiva e sono agganciato con 7 metri di cavo al commutatore Meritrong, quindi sono diretto praticamente, capito, quindi va bene. Ultimo tratto, ecco perché avete aumentato anche voi. Sì, ma io Giulio sai perché l'ho fatta, non è come quello il connettore, stai attento, non è come quello lì. Il microfono originale, della che poi non me l'avevano dato, però avevo un altro microfono che praticamente ho dato a te e ho cambiato lo spinotto praticamente. Era con le punte lunghe, quindi non era così, quello forse più stabile, perché di plastica c'è la ghiera, c'è quello là aveva le punte, entrava dentro, quindi quando tu andavi a spostarti col microfono, magari per allungarti, mi si staccava sempre, capito? Addirittura l'avevo anche messo in macchina, era una cosa allucinante, non potevo usarlo in macchina. L'avevo messo all'elastico per non spostarsi e alla fine ho deciso di fare quella, ma perché era la mia, me la dovevo tenere, non è che poi è capitato che l'ho data a te, ma comunque un lavoro fatto bene, non è che è fatto uscì, è fatto tutto bene sia dall'interno che dall'esterno. E vabbè, anche perché poi quei connettori lì dell'HB23 non si trovano, mentre questi qua del Boni, della Gain, di tante altre radio si trovano, sono normalissimi i jack che si mettono, jack, sono degli spinotti, ce l'ho anche io sul K, anche sul 756 c'è quello lì che si mette, non so per che cosa, boh, comunque si trovano, mentre quello dell'HB23 Giulia non l'ho mai trovato, mai. Sì, io lo so di quale spinotto stai parlando, era quello con le punte scoperte, tra virgolette, dai, e quando tu avevi lo spinotto in mano vedevi che le punte erano oltre, mentre invece quello di adesso è diverso, le punte tutto sommato hanno diciamo così una copertura intorno. Sì, ho capito, ma rimontarlo anche la Zodiac, quel tipo di spinotto, io mi ricordo, perlomeno in certe versioni di certi baracchini ce l'aveva anche la Zodiac, che ce l'aveva quel tipo di spinotto lì che era cromato eccetera eccetera, come cosa, no, come l'involucro, era tutto cromato, sì, me lo ricordo benissimo qua. Bene, Vabbè, dai, comunque uno vale l'altro, dai, più o meno. Avanti, Robe. A questo microfono va meglio invece. Questa è tutta un'altra storia, Robe. Questo è un Pony 40 canali, 44, Pony 44. Quel microfono lì non so se si può adattare a quella Pony, Pony 292 mi sembra, 293, non mi ricordo bene. Se si può adattare, se il collegamento è buono, provo a provarlo lì. Avanti il brecco. Buonasera a tutti, sono stato cordiale. Ciao Francesco, aggiusta la radio, però che non è buono, non è chiarissima. Aggiusta la radio, Francesco, che sta uscendo male, di radio perlomeno. Santiago è 7, ma la radio non è chiara, aggiustala. Ok, avanti, va bene. Ha detto Urano, hai detto, scusa, perché sta uscendo un po' distorto, non ho capito. Il segnale è forte, se 9 più 10 abbondante, quasi 15, però la radio è troppo distorta, non riesco a capire esattamente quello che dici. Ma a me stai dicendo, va bene. Urano, così ha detto che si chiama. Urano, allora abbiamo parlato in due. Io gli ho detto di aggiustare la radio, gli avevo detto, Urano, aggiusta la radio, perché sta uscendo male del radio, a differenza dell'altro giorno che poi ha iniziato male, poi ti sei messo a posto, fallo anche adesso. Va bene, dai, avanti con la. Sì, infatti io non ho capito neanche chi era. Ciao Francesco, buonasera, sei tutto distorto, strappato, cupo, chi più ne ha più ne metta, vedi un po' di dare qualche regolazione, perché altrimenti io non ti capisco, ho tolto anche l'NB qua, ma non riesco a capirti, vieni avanti. Non so se si lisce, se si è attaccato, c'hai cioè un segnalone, o se dipende da me da questo spostamento che ha fatto, sei quasi 9 più 10, caspita, e Santiago 8 l'altro giorno. 908, io non so manco di cosa stai parlando, cos'è questo 908? La Dunis come mio. La facciamo la radio, è 908, non mi dice niente, la V908, Francesco, intanto inizia a abbassare il Mickey Gain, può darsi che sia troppo alto, leggermente la parte del Mickey Gain abbassa. Allora, Urano, ce l'ho identico io, se vuoi te lo faccio sentire su questa radio, è molto complicato da regolare quel microfono. Guarda, io non ce l'ho presente adesso, lo conosco benissimo, ma se non ce l'ho davanti non posso, forse ti può più aiutare Roberto o Francesco, perché non ce l'ho davanti? Non so se stai usando il parametrico, se c'è l'equalizzatore inserito, quanto hai la compressione, non lo so, meno un pochino. Con le scuse di Giulio, io passo il cambio a Roberto, magari ti dà qualche dritta a lui, ok? Io vi saluto e ci sentiamo dopo. Vai Roberto. Scusa Giulio, delle dritte. Questa è la 12908 su 44. Tu che apparecchio stai utilizzando, Urano? Ma il compressore in che posizione ha messo? Medio, alto o basso? C'è scritto compo e poi c'è scritto height, medio e low. In che posizione ce l'hai tu? Cosa volevo dire? A livello del microfono c'è scritto low to level, a quanto è? Qua qual è? 908? Eia. Come bu, cioè, c'è scritto un sulleve, il primo potenziometro, uno solo, dai, il potenziometro. Allora abbassa un bel, perché io ce l'ho a 3 quello lì, lo devi mettere al minimo a 3, posizione a 3 e mettilo. Giulio, lui quanto ti arriva Urania da te? Senti, o se ti arriva a me, di segnale, di radio no, non buona, la radio è tutta quanta messa male. E vabbè, dai, già la aggiusterà. Abbassa la radio, Uranio, che probabilmente è quello che è distorta, che sarà per quel motivo lì. E vabbè, dai, avanti Marco. Sì, un istante solo che tanto sto mangiando, lo faccio proseguire voi. Sì, la V908 l'aveva avuto anche Gianni Ropiurum, ma siccome ha troppe regolazioni, gli aveva dato un po' da fare per cercare di farlo uscire come si deve. Vai Robè, quello è bianco per me. È un grande microfono, però ripeto, le regolazioni sono molto ma molto delicate, basta che spruzzi l'equalizzatore di un peluzzino ma cambia completamente la modulazione. Hai provato a passare Urano? Sei un po' bassino adesso, dimmi un po', l'equalizzatore è inserito, in che posizione l'hai messo? C'è scritto l'equalizzatore, c'è scritto tre posizioni, due volte on e poi c'è scritto off. Mandalo tutto su quello. Alza un po' il livello del microfono adesso. La voce non è chiara, vuole tutto equalizzato, solo che adesso o ci spostiamo di canale così non disturbiamo nessuno, perché devi regolare l'equalizzatore adesso, sta andando malissimo. No, continua qua, vabbè, sbaglio a regolare qua, intanto cosa si scusi, farlo facciamo noi tre e basta. Faglielo regolare qua, dunque, sperando che poi lo lasci sempre, quando una volta che è regolato non lo devi più spostare, Uranio. Non credere che quando tu aumenti tutti i valori di amplificazione, toni e volume di uscire bene, una volta che ti diciamo vai bene, lascialo sempre così, memorizzalo così la prossima volta, sai che deve entrare mettendo tutti i potenziometri, tutte le cose in quella posizione, così non ci sarà più bisogno di fare tutte queste regolazioni. Continuate pure, Robe, vai, fagli fare le regolazioni, non c'è problema. Scusate di nuovo, allora l'equalizzatore metti tutto a zero, ci sono quattro equalizzazioni, quattro di quelli slider, mettili tutti e quattro in posizione centrale. E beh, ci sono ancora. Sta migliorando. Ok, adesso tutto in posizione centrale. Ok, vediamo un po'. No, Giulio, no, non ho fatto niente, mi aveva regolato il audio, una volta, ero spettato, dopo, diciamo, una volta che si è spostato. Io, quando me lo regolano, sono come, l'ho spostato solo che era già un... Mentre io, per fermo, non sapevo cosa avevo più usato, più, perché dal telefono è stato un po'. Ok, niente di particolare, no, non avevo potuto niente, io come diciamo me lo regolano, ho vita con l'indicazione telefonale, non l'assistente con vita, capita, non so come avevo più niente, ok, riprende, avanti. C'è da dire però, Uranio, se tu cambi radio, ogni radio ha la sua equalizzazione, però non funzionerebbe mai, cioè se cambi radio è completamente diverso il discorso. Se tu hai messo tutto al centro, abbassa il primo di destra, abbassalo tutto giù. Nulla, prova a salire tutto su adesso. Adesso tutto su, ok. Ok, allora, quello di secondo, diciamo, partendo da sinistra, il terzo sarebbe, da sinistra verso destra, il terzo, mettilo tutto giù. Il volume quanto c'hai tu? Il volume, rimane sempre in direzione del microfono, il volume del microfono quanto è? Il volume del microfono è a 4. Prova a sollevarlo un po'. allora qua ci siamo relativamente, ci siamo. Poi dove c'è scritto 1000 il secondo partendo da sinistra sempre, mettilo tutto giù. 2000 come ce l'hai? Sempre al centro, mandalo tutto su. Robè, c'è un po' al limite, un po' rimbombante. Ah, io? E io. Vabbè, forse mi sono avvicinato troppo al microfono. È così? Meglio. Urano, avrei provato il primo, i 2000, a mandarlo tutto su. Ok, allora, l'equalizzatore, quello che c'è scritto compressione, l'hai messo al centro, in posizione media, c'è scritto media. Prova a mandarlo su, poi prova, un attimino. No, mandalo giù un attimino, tutto al vero, cioè in posizione bassa. Ok, alza il microfono adesso, il livello del microfono. Allora, è migliorato un pochettino, però doveva fare equalizzazione, quindi riepiloghiamo il primo di l'ultimo partendo da destra, il quarto, cioè partendo da sinistra, e quello lì ce l'hai tutto giù, mi hai detto. Il 270, quanto ce l'hai? Tutto giù o tutto su? Il 270, è tutto su. Allora, mandalo tutto giù, facciamo una prova, mi parli, mi dici, questo è con tutto su e questo è tutto giù. Mandalo tutto su? Ok, questo lascialo fare così. Il 540 come ce l'hai? Il 540 è il terzo partendo da sinistra. Ah, 540, sì, ho capito, è tutto giù. Prova a sollevarlo tutto su. Ok, tutto su, 540. No, questo lascialo tutto giù, 540 lascialo tutto giù. Ok. Andiamo fino a questo faccio qua su, 1, 2, 3, prova. Forse qualcuno ha sovramodulato. Riprova a parlare. 1, 2, 3, prova, tutto giù, il 2, tutto giù, tutto giù, tutto giù, tutto giù, tutto giù. Il 1000 quanto ce l'hai? Il 1000 quanto è? Il 1000 è tutto giù, tutto giù. Scusa, non ho detto, cos'è tutto giù o su? Scusa. Giù. Mandalo tutto su il 1000. Ok, tutto su. Tutto su, nulla. Mettilo a metà, al centro. Ok, a centro, a metà. Ok, 2000 quanto ce l'hai? Il 2000 è tutto su. Mettilo al centro, quello. Ok, a centro il 2000. Guarda, si potrebbe fare più precisa, comunque già qualcosa ha cambiato, chiediamo conferma, Gianni ti faccio entrare subito, chiediamo conferma a Giulio e a Marco, si può fare molto più precisa l'equalizzazione, adesso bisogna fare le lavorazioni millimetriche, però non ha bisogno tanto, chiedo conferma prima a Giulio e poi a Marco. Sì, così è accettabile, dai, così può andare bene, Uranio, così può andare bene, anche magari c'è la perfezionata qualcosina, però così per me va bene, non c'è problema. C'è stato un break, aspetta che prima lo facciamo entrare, break, e dopo magari potete continuare. Avanti il break. Buonasera a tutti, buonasera a te Giulio, buonasera a te Uranio, buonasera a te Roberto e a tutti. Antonio Bombo a questa parte, non so chi c'è altro. Ok, c'è anche Marco che ogni tanto si affaccia perché è un po' impegnato, però anche lui è in ruota. Sì, ciao Antonio, sono ben entrato. Santiago, sì, per te va bene così, dai, la radio è buona. Comunque potete continuare, Robè, dai, se volete affinare questa regolazione va anche bene, però così è già accettabile. Avanti Robè, confermi? Sì, ha migliorato, bisogna fare adesso le regolazioni quelle millimetriche, dai, io vi lascio 5 minuti che mi hanno chiamato, non entro tra poco, dai, proseguite voi, ciao a tutti, ci arriva Gianni dal segnale, ci sentiamo tra poco, dai, scusatemi un attimo. Scappa addirittura. Dai, ci sentiamo eventualmente dopo. Io spero di uscire bene in radio, comunque non mi avete detto niente, evidentemente sta andando, perlomeno è la mia radio questa. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Buonasera. Buonasera, avanti. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Salute 13, cosa vuoi dire? Anzi, 14 che è più sostanzioso. Se fai un 14 almeno ne puoi dare un po' a noi anche della vincita. Va bene, salutoni. Cosa vuoi che ti dica? Va bene, dai, riprendi Marco. Marco, buon appetito, non sei ancora arrivato al dolce, vuol dire che stai mangiando troppo, guarda, devi mantenere la linea, per cui non esagerare. Fai da bravo. Avanti Francesco. Ciao Tony. Ciao. No, no, ragazzi, qui ho fatto il troppo, per favore, sposta. Certo, però ragazzi, questa parizia non lo sposto, non so fare. Questo rimane per questa parizia. Ma mi devo riparare di quello che c'era prima, ragazzi. Questo qua è un po' troppo complicato, tu come stai dicendo adesso va lunga, io adesso non so più, perché mi hanno aiutato a regolarlo così e così lo lascio. Lì a ritoccare il globo, no, negativo, eppure questo microfono di tempo non lo, da qua non si sposta, è sempre collegato a questa parete qua e via. Ok, perfetto, allora assumo Pombolo e dottore Portiani qua dalla pulizia, ok, già fatto, va bene, riserva ma Gianni, allora ok, la regolazione, va bene, dai, riprendi tu, la facciamo girare, io faccio girare, vediamo un po' se adesso entra. Buonasera, avanti, buonasera, arrivederci, grazie per la vincita e tutto qua, salutone, avanti Tonino. Ciao Giulio, ciao Antonio, un altro più basso che mi arriva, ciao Marcolino, e sto ascoltando le prove che sta facendo Roberto. Bene, Marco, lì, riprendi. Cappa. Sì, io sto finendo di mangiare, come ha detto Giulio, dai, per adesso rimango in bianco, via. Comunque, Francesco ha migliorato parecchio, magari non è cristallina come la tua solita modulazione, quando usi quell'apparato Saturn o giù di lì, però ha migliorato. Quel mic sì, ha troppe regolazioni, troppi parametri, una paranoia, no? Non è per me, dai. Allora, chi rilancio adesso? Ho sentito una portante alta anche, vediamo se Antonio Riserva che vuole entrare. No, sembrava lo stacco suo, va bene, vabbè, Tony, riprendi tu, che io adesso qua finisco con calma, dai. A dopo. Ok, dai, buon carico, tutte le ore sono di Dio. Avanti, questo è Francesco, mi copri Francesco? Forte e chiaro, avanti, ripeto. Scappa Antonino Cavazzacchi da questa parte, fuori Sassari, ovviamente. Anda a me, da che bombo l'altro che tira in parcheggio, avanti Antonio. E capa, salutone l'amico Uranio, che da Usilo. Ok, allora, Antonino Cavazzacchi, ma noi ci conosciamo, sono passati a no? Antonino Cavazzacchi ha messo dei nuovi, conosciamo, è una cosa che ci guardiamo, Antonino Cavazzacchi, ma la modulazione è la stessa, ok? Cappa, ci conosciamo molto da vicino. Il tuo cognome inizia con Foxtrot. Bravo, bravo, bravo, già si sentiva, ok, già si sentiva. Cappa, benissimo, benissimo. Cappa, e quello scambio l'ho fatto l'altra volta, per tornare la parte è andato a partire, non ho visto la regia, è tutto. Tutto è andato a partire poco, ok, non riceveva, non trasmetteva, tutti i clienti, tutto, ok, allora ho detto, guarda, tu è alta, l'ho buttato, però l'ho dato via, dai, adesso non so se siamo, l'hanno lasciato, non mi risposta, mi viene l'ore, mi pare che c'era uno che porta fuori, però non mi risposta. Vabbè, lasciamo perdere, già che tu, ok, sta mangiando. Ti arriva bene almeno lì a Usilo. A voi gli arrivi bene qua, qui arrivano segnali di...